La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, eccoci all'ora di cinema settimanale qui su Radio 24 per fare il giro di tutte le proposte cinematografiche che si affacciano in sala in questo fine settimana, per giocare insieme con i grandi film in Blu-ray e DVD, per i consigli per tutto quello che concerne la visione domestica dei film. Insomma, come sempre, un'ora di cinema molto molto intensa, tante le pellicole che arrivano in sala in questo fine settimana. Qualcosa si muoverà sicuramente ai vertici delle classifiche, degli incassi. Noi cominciamo a riepilogare come sempre i contenuti principali della trasmissione nei nostri titoli di testa. Benvenuti al Nord. In sala il sequel della commedia campione d'incassi della scorsa stagione. Stavolta è Alessandro Seani a cimentarsi con la permanenza a Milano, fra la frenesia della gente, lo strano amico Claudio Bisio e un capufficio fissato con l'efficienza. Ne parliamo con il regista Luca Miniero. Ci vorrebbe un aiuto. Lo racconta The Help, film ambientato nella Real America degli anni 60, dove razzismo e perbenismo sono duri a morire. Un'aspirante scrittrice tirerà fuori le verità del popolo black in un'intervista con una cameriera. Donne per la pace anche in E ora dove andiamo? Di Nadine Labaki. Un villaggio medio orientale, uomini che si dividono fra cristiani e musulmani e donne che ricuciono gli strappi a prescindere dalla religione, dalla regista dell'acclamato Caramel. Gli alieni invadono di nuovo la Terra e stavolta atterrano a Mosca. L'ora nera racconta lo strano viaggio d'affari nella capitale russa di 5 giovani che si troveranno a combattere per la vita e per la Terra, anche in 3D. E abbiamo cominciato quindi con i titoli di testa, avete sentito quali sono i contenuti della trasmissione. Noi cominciamo con un film che arriva con il marchio Disney, si intitola The Help, è un film ambientato negli anni 60, si torna a parlare di quello che è stato il momento forse più difficile, più particolare della fine, da un certo punto di vista, della segregazione razziale negli Stati Uniti, ma soprattutto di trasformazioni epocali che poi hanno cambiato per sempre il mondo, e lo si fa con la lente di ingrandimento particolare di tre donne straordinarie in questo profondo sud americano. Ne parliamo con la nostra Chiara Pizzimenti, che ha visto per noi il film. Ho trovato un lavoro oggi al Jackson Journal. Diventerò una vera scrittrice. Oh cielo, credo proprio di sì. Brava, scrivi il mio necrologio. Charlotte Phelan, deceduta, sua figlia, ancora zitella. Una madre di Jackson, Mississippi, negli anni 60, si aspetta dalla figlia solo un bel matrimonio, ma Eugenia, per tutti Skeeter, ha ben altro in mente. Arrivata a casa dall'università, non trova la domestica che l'ha cresciuta, la famiglia non le dà spiegazioni e lei comincia a guardare con occhi nuovi le donne di colore, l'aiuto che ogni signora bene della città ha in casa. Farei conoscere il punto di vista delle cameriere. Un libro così nessuno l'ha mai scritto. C'è una ragione. Queste donne crescono i bambini bianchi, ma in casa non possono neanche usare il bagno. Mimi, sei lì dentro? Tu sei licenziata! La prima a raccontarle la propria storia è Aibeline, cameriera. Il lavoro che ha sempre saputo di dover fare. Sua madre era una cameriera, sua nonna una schiava domestica. Dopo tocca a Minnie, capace di far assaggiare alla vecchia padrona qualcosa di molto simile alla cioccolata. Tutte le cameriere vorranno poi dire la loro. Dico, ma sei impazzita? No, ma impazzire a lei. Ora siamo fritte. Sarà uno scandalo. Da noi le cose vanno bene. Perché sollevare problemi? Perché i problemi ci sono? Mi ci avete tirata dentro e vado fino in fondo. Ain't no use to sit and wonder why, babe. You don't know by now. The Help, l'aiuto, è la raccolta di storie che sconvolge Jackson ed è il titolo del romanzo di Catherine Stockett, che per settimane è stato in testa alla classifica dal New York Times e da cui è tratto questo film, firmato da Tate Taylor, donne di mondi diversi che si incontrano grazie alle parole nel ben descritto sud della segregazione razziale. Forse un po' troppa melassa e qualche caricatura eccessiva nei personaggi, ma una grande prova di attrici. Sono loro, Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, già premiata con il Golden Globe, Jessica Jessica Chastain e Bryce Dallas Howard a rendere coinvolgente la pellicola. Al botteghino americano è stato un successo, chi lo ha già visto lo ha apprezzato anche in Italia. Sì, mi è piaciuto molto. Sulla falsa riga, i pomodori verdi fritti, mi può ricordare un po' quel genere lì. Ma un po' tutta la storia, la trama, anche i personaggi, insomma un film un po' diverso dal solito, ecco. Bello, poi rende veramente quello che erano quei tempi, insomma. Mi è piaciuto, è un film buono, mi piace, e poi interpretato splendidamente. Commovente, bello, allegro, tutto. Mi è sembrato un finale troppo buonista, il primo tempo era abbastanza originale, e dopo è finito come tutti i film americani. Chiara Pizzimenti per The Help, il primo film in sala in questo fine settimana del quale vi abbiamo voluto parlare, tra l'altro con una grandissima colonna sonora che è già nei negozi di dischi e online. La rosa purpurea. Trasferita a Milano. Che brutta morte. Arrivo io a restare con te con il bambino. E crescere. Ci botto con fendi nebbia, ti è utile perché a Milano c'è sta nebbia. Non andare al corto. Sta tranquillo. Alberto è un amico vero, è un amico sincero. Ma Dio, che piacere dirti. Se questa strada. Sulle parole, sulle note di Van der Sfross, noi abbiamo voltato pagina. Benvenuti al Nord. Siamo all'uscita della settimana per quanto concerne almeno quelle che sono le ambizioni anche di pubblico. Un film che è uscito un paio di giorni prima degli altri in sala. Benvenuti al Nord, che è, qualcuno dice il seguito, qualcuno dice un po' il remake, insomma è un altro capitolo, diciamo così, di quella che è una saga prima francese, poi italiana, che ha davvero spaccato il mercato lo scorso anno con il suo primo capitolo, che era Benvenuti al Sud, e che adesso si ripropone di fare altrettanto, forse anche di più, con questa tappa milanese del film. Sì, perché sostanzialmente ci troviamo di fronte agli stessi personaggi, ma a campi invertiti, una sorta di girone di ritorno del film. Se Claudio Bisio si era innamorato del sud, della Campania, nel suo viaggio nel primo film, questa volta toccherà ad Alessandro Siani fare altrettanto, sarà un po' più difficile oggettivamente, a Milano, catapultato con tanto di giubbotto con fari fendi nebbia, nella Milano di oggi, fra i grattacieli e le case di ringhiera, fra il vecchio e il nuovo, in una città eternamente in movimento, per cercare diciamo così, forse affermarsi dentro se stesso prima ancora che nel lavoro appunto di postino, quello che faceva già nel primo film. I personaggi di contorno poi sono quelli che già conosciamo, c'è qualche novità, alcuni gustosi dialoghi con una Angela Finocchiaro che interpreta, oltre alla moglie di Bisio, anche la mamma, cioè la suocera di Bisio, con esiti abbastanza esilaranti. Insomma, tutto procede con gli stereotipi che sono esattamente ribaltati dall'altra parte, e se lì chiaramente Claudio Bisio partiva col giubbotto antiproiettile, con le ansie di trovarsi coinvolto in una sparatoria in mezzo alla strada, qui appunto c'è la nebbia, c'è il lavoro, c'è la frenesia, c'è l'incapacità di comunicare, che poi, esattamente come accadeva nel primo film, sono tutti stereotipi che con un graffietto vengono giù e si scopre quello che c'è dietro la facciata. Diamo il benvenuto e salutiamo il regista di Benvenuti al Nord, Luca Miniero, che è in collegamento con noi da un treno. Speriamo che il collegamento regga. Ciao Luca. Ciao a tutti. Allora Luca, cominciamo subito con il dipanare una questione. Qualcuno dice sequel, qualcuno dice remake. A me è sembrato innanzitutto un film, ecco, quello sì, che, esatto, che mi è sembrato un film che stavolta proprio cerca anche di distaccarsi ulteriormente dai toni, diciamo, della commedia comica, apertamente comica, per cercare qualche fuga anche quasi nel surreale, creata soprattutto con la fotografia e con determinate inquadrature. Insomma, il tentativo anche quasi un po' di rallentare in certi momenti. È così? Sì, poi comunque io pure penso sia soprattutto un film di commedia, poi naturalmente un film che ha il confronto con l'altro, però è un esperimento interessante, perché si tratta comunque di due film molto divertenti, ma che in qualche modo sono anche diversi e autonomi. Il primo mi sembra un film fatto più di emozione, il secondo fatto più di ragione, proprio perché sono le due chiavi interpretative del Nord, per me in qualche modo la ragione, e del Sud l'emozione. Senti, parliamo di Siani, di Alessandro Siani, perché sì. Questa volta è lui, diciamo, il centro del film, il suo essere straniato in mezzo a una Milano che non conosce. Certo, magari è difficile pensare che oggi, nel mondo globalizzato, un giovane del sud non conosca, però insomma ha una sua non c'è niente di una sua naività, diciamo, certo. Così, ecco, e però volevo farti questo parallelo. Ora è chiaro che è un paragone forse esagerato, però devo dirti che in questo film soprattutto mi sembra che Alessandro Siani somigli sempre più a certe cose di Massimo Troisi, cioè c'è un po' questa allure che sta splendendo su Siani. Sì, questo io penso siano molto diversi, allo stesso tempo penso che chiaro che hanno anche una fisicità molto simile, però è come paragonare in qualche modo, questo lo ammette lo stesso Siani, che ne so, un attore contemporaneo di Edoardo De Filippo. Qua stiamo parlando di uno che per noi napoletani è un vero e proprio mito, però indubbiamente credo che Siani faccia benissimo a utilizzarlo come ispiratore, però in realtà sta cercando anche un lato assolutamente personale. Fra le novità di questo film, Luca, mi piace sottolineare quella di Paolo Rossi, il ruolo del capo delle poste di questo herpes, di questo progetto particolare, davvero sembra quasi ritagliato su di lui. Sì, assolutamente, perché in effetti Paolo è proprio il contrario di questi manager assolutamente assatanati del sudore dei lavoratori, e quindi in qualche modo si cala benissimo nella parte in modo molto molto divertente. In realtà il film è proprio in qualche modo una vera e propria anche messa alla vetrina a certi tic del nord, ma soprattutto a certi tic dell'Italia. Ecco, un'ultima cosa, Luca, benvenuti al sud, benvenuti al nord. Scherzando, nei titoli di coda c'è un cartello di un possibile copione, benvenuti a est. È lì che vuoi andare la prossima volta? No, è assolutamente, se vado molto volentieri in vacanza, ma no, diciamo che per quanto riguarda questi due film credo che esauriscano molto bene il tema, diciamo, dell'Italia di oggi, nord e sud allargati, quindi comprendono anche l'est, comprendono anche il centro, e diciamo che sicuramente adesso godiamoci questo film. È molto faticoso fare un sequel, mi ha interessato perché comunque è provare in qualche modo una sfida nuova, però è chiaro che in effetti una volta venuto al sud adesso prendo una vacanza e sono distrutto. Perfetto, allora buon riposo. Grazie, e buon viaggio a Luca Miniero, e al cinema ricordiamoci, cioè, benvenuti al nord. E dopo aver parlato allora di Benvenuti al Nord, e prima di andare ad affrontare altri film che arrivano in sala in questo fine settimana, apriamo la prima finestra sul nostro game. Giochiamo anche questa settimana in Blu-ray, anzi vi dico di più, va, vi svelo una novità, giochiamo in Blu-ray 3D, per cui ce n'è veramente per tutti i gusti oculari, diciamo così, e cominciamo a sentire la prima traccia del film misterioso di oggi. Avete una biblioteca? Oh, sì, sì, certamente. Con i libri. Mucche di libri. Montagne di libri. Foreste di libri. Cascate di libri. Allora, se c'è già qualcosa, ovvio che gli appassionati poi, chissà, avranno già indovinato dalla prima sillaba, però ci sono già delle inflessioni che possono aiutarvi a capire. Comunque più tardi avremo altre due tracce. Se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci titolo e vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it per provare a vincere questo Blu-ray 3D. Più tardi, dicevo, altre due possibilità. Torniamo a parlare di cinema, torniamo a parlare di film in sala, e lo facciamo con il nuovo film di una regista che ci sta molto a cuore, di cui avevamo molto apprezzato il precedente Caramel, un film che tra l'altro è presente anche in un video, e consiglio chi non l'abbia visto e chi volesse vedere questo nuovo di dargli un'occhiata. Nadine Labaki, o Labaki a seconda che la si pronunci alla francese, il film è E ora dove andiamo? Punto di domanda. È una domanda che risponde a una situazione ancora una volta ambientata nel bel mezzo di quel Medio Oriente che Nadine Labaki ama tanto e che ha generato i suoi natali. Allora cominciamo subito a sentire questa clip e poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Quella è Svetlana e quella è Tatiana. Mi fai vedere? Sì, guarda, guarda. Avevamo detto vestite sexy, non scostumate. Sembrano appena uscite da una carestia. Silio, fremile. Siamo nella merda. Mio caro imam, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E allora avete sentito uno dei frangenti del film, un piccolo villaggio, un corteo di donne, un corteo funebre che avanza verso il cimitero e poi il corteo si divide, così come si dividono le anime e i credo religiosi di questo villaggio, da una parte musulmani, dall'altra cristiani. Gli uomini litigano, le donne pensano e fanno la pace. È un po' quello che vuole essere l'anima del pensiero di questo film. E ora dove andiamo? Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris. Salve Franco e salve a tutti gli ascoltatori. Allora, dove andiamo? Ci chiede Nadine Labacchi e si chiede dove va questo film. È ancora una volta un apologo sulla capacità delle donne di lavorare sotto traccia per quello che il mondo al maschile tante volte non riesce a fare. Ma andiamo su un sentiero di pace. La cosa interessante, e qui tiro fuori le mie radici balcaniche, c'è un detto che recita più o meno appunto in un altro forse dei luoghi più turbolenti della storia, insieme al Medio Oriente, ovvero i Balcani, che dice che la faida è femmina, cioè spesso volentieri le faide si alimentano per l'odio che viene trasmesso non tanto per via maschile, perché i maschi muoiono presto, quanto per madri e sorelle che alimentano appunto il ricordo dei morti. E proprio come succede in questi casi, che si può appunto alimentare l'odio, però si può anche alimentare la pace. E l'apologo pacifista di Nadine Labbaki, che ha girato tutto il mondo e che in Libano è un autentico caso, il titolo, che è lo stesso italiano, è diventato un modo di dire per molti movimenti pacifisti, per quel po' di primavera araba che ha lambito anche il Libano. Il film è molto bello, secondo me, è un film che come Caramel ha una regia semplice, ha una struttura corale tutta al femminile, e rispetto a Caramel secondo me è scritto anche meglio, perché il principio è molto semplice, ovvero c'è un villaggio che noi immaginiamo libanese, ma non è un non luogo e non tempo, diviso tra cristiani e musulmani. In verità però si vogliono bene e si rispettano, soprattutto i giovani, e anche questa grande metafora del Medio Oriente, ma sono costretti dalla loro cultura a litigare sulla religione, a litigare e anche ad ammazzarsi in nome di Dio. A fare da muro a questo ci sono le donne, che si sono stancate di portare il lutto, di essere al mondo solo per poter piangere i loro uomini, che siano fratelli, figli o mariti, e decidono con trucchi prettamente femminili, dall'uso del corpo come seduzione alla cucina, c'è un modo curioso di prenderlo per la gola, e nel trailer sentiamo un pezzo di canzone che lo spiega molto bene, usano tutti i trucchi per distrarre i loro uomini. Può sembrare una commedia, non è solo quello, perché a un certo punto queste donne si troveranno di fronte a delle scelte davvero atroci, e in nome della pace prenderanno persino quelle scelte. Quindi davvero un film importante, in cui la Labbaki è grande regista e grande attrice, è un film che secondo me diventerà un classico come Tren de Vie, o un classico di un certo tipo di cinema che può crescere veramente in un modo diverso le generazioni. E del resto la capacità della Labbaki appunto di fare col sorriso quello che altri fanno con la guerra, di raccontare in chiave quasi in tono di commedia cose molto forti come la lotta all'integralismo e appunto il desiderio di pace da quelle parti del mondo è davvero il suo punto di forza. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma. Proseguiamo la carrellata di uscite al cinema. Arriva un film, una fantascienza adolescenziale, potremmo chiamarla, che si intitola L'Ora Nera. È un'altra proposta in 3D di questo fine settimana, e racconta, guarda che novità, l'invasione degli alieni, ma lo fa questa volta in salsa russa, perché questa volta gli extraterrestri prendono Mosca come aeroporto, diciamo così, sul quale atterrare sulla Terra, forse per la prospettiva di vedere una società in evoluzione non stanca, diciamo, come quella occidentale. Fatto sta che appunto si racconta di questo. Noi cominciamo a sentire un po' un po' il clima del film in questo trailer, poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Benvenuti a Mosca. Guardate che posto! 1, 2, 3. Non avevamo mai visto niente del genere. È impossibile stabilire un contatto visivo. Ingenti le perdite di vite umane. Non si tratta solo di Mosca. New York, Parigi, Tokyo hanno segnalato alieni invisibili. Sono venuti qui con uno scopo. Loro possono vederci, ma noi non possiamo vedere loro. Che cosa vogliono? Energia, elettricità. Energia e elettricità è quello che questi esseri vogliono succhiare dalla Terra e dai terrestri. Boris Sollazzo, dicevamo a est, potremmo dire in questo caso, visto che siamo a Mosca, niente di nuovo sul fronte della fantascienza, prodotto però ben fatto tutto sommato alla fine. Ma direi proprio di sì, perché recupera il meglio della fantascienza, ovvero un certo gusto di fare cinema anni 80 con le metafore anni 50, chiaramente riaggiornate però in questo periodo. Non voglio fare il vintage, ma di sicuro in qualche modo in questi periodi c'è stato un qualcosa in più. C'è anche la furbizia, diciamo, dei fantascientifici di professione. Non c'è nulla di più economico di un alieno invisibile. Tip McMahmatov è il produttore, un geniaccio russo che ha fatto soldi a palate con i Guardiani della Luce, quindi ancora l'energia di mezzo, uno che ama giocare con uno della scuola di Roger Corman, che ama giocare con questo tipo di metafore. Qui la metafora è due programmatori americani, tra cui Emil Hirsch, che continua a scegliere film strani ma interessanti, e arrivano a Mosca per vendere una redditizia applicazione per cellulari. Vengono anticipati da un loro concorrente non molto leale. E per consolarsi decidono di uscire con due turiste americane. Uscendo dal locale però scoprono che, insomma, ci sono questi fasci di luce che semplicemente polverizzano tutto ciò che trovano, e soprattutto esseri umani. Questi alieni però sono completamente disinteressati, e qui forse la metafora è la cosa più interessante, agli uomini, che pure uccidono senza problemi, ma vogliono appunto energia, elettricità, tutto ciò che è tecnologia. E infatti qui vediamo di tutto il mondo tecnologico, cioè quello che di solito il cinema ignora. Se pensate che nessuno usa cellulari al cinema, o quasi, anche quando dovrebbe farlo, perché gli potrebbe essere utile, qui viene visto in maniera ossessiva. E chiaramente è anche un modo per criticare la schiavitù del mondo per la tecnologia. Alla fine, insomma, il film è anche grossolano cinematograficamente, anche i suoi difetti narrativi e visivi, però si vede con gusto, come si vedeva appunto la fantascienza di tanti anni fa, a cui si perdonavano tanti errori, perché alla fine intratteneva anche con una certa intelligenza. Perfetto, Boris. Allora, questo era L'Ora Nera, ricordo ancora, proposta in 3D al cinema. Grazie a Boris Sollazzo, appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana, ciao Franco. Seconda traccia del film misterioso di oggi, giochiamo insieme, sentiamo. Ormai ne parla tutta la città. Non è giusto che una donna legga. Le vengono in testa strane idee e comincia a pensare. Gaston, sei decisamente primordiale. La Rosa Purpura è a @radio24.it. Di che film si tratta? Anche qui un indizio, un nome veramente fondamentale in questa storia. Più tardi, la terza e ultima possibilità. Parliamo adesso di un tema che non è un film, ma che è un luogo che i film li dovrebbe proiettare. Dico dovrebbe perché sempre meno questo accade, soprattutto nei centri delle città. Si è fatto un certo gran parlare negli ultimi tempi, e c'è stata anche una riunione questa settimana importante a Milano per l'esito dell'ennesimo cinema del centro cittadino di Milano, ma sappiamo che è assolutamente una situazione che coinvolge tutte le città d'Italia indistintamente, grandi, piccole, in provincia addirittura ce ne sono interi capoluoghi di provincia che non hanno nemmeno un cinema, quindi sappiamo che è un tema universale. Lo affrontiamo perché a Milano ha chiuso una sala di una bellezza unica come il Cinema Manzoni, nell'omonima via Manzoni. Per darvi l'idea, per chi non è di Milano, siamo tipo a 200 metri dalla Scala, e quindi, come dire, sicuramente possiamo dire in centro. Proprio lì di fronte c'era il Cinema Cavour, che ha chiuso qualche anno fa. Insomma, ecco il solito deserto che si sta formando nei centri delle nostre città. Un'altra sala, questa straordinaria anche sotto il profilo architettonico, scompare, ipotesi, ma indovinate un po', Megastore. Megastore, mutande, intimo, biancheria, maglie, magliette, jeans, scarpe, chi lo sa, profumi. Com'è stata la sorte di tutti i cinema che hanno chiuso, dall'Astra all'Excelsior, parlo di quelli di Milano. Ognuno di voi avrà sicuramente storie analoghe nella propria città. E allora, noi vogliamo un po' cercare di parlarne, perché ci sembra l'unica cosa che possiamo fare noi e anche una cosa forse utile, perché mette in moto le menti e i cervelli delle persone. Parlarne, perché questa è una situazione che deve finire. Temo che finirà con la scomparsa dei cinema nei centri cittadini. C'è qualcuno che ancora resiste? Per parlare di cosa è stato il cinema Manzoni e di questo tema dell'impoverimento, che è un impoverimento non solo di comodità, ma anche proprio di vita e di frequentazioni all'interno dei centri che sembrano sempre più città deserte dopo una certa ora. Noi siamo in collegamento con Maurizio Porro del Corriere della Sera, che saluto. Ciao Maurizio. Sì, ciao Franco. Allora Maurizio, cos'è stato il cinema Manzoni nello specifico e perché non si riesce a mettere fine a questa moria di sale straordinarie anche molto spesso a livello cittadino? Beh, è stato all'inizio, alla fine degli anni 40, insomma, è stato il cinema più fastoso e più lussuoso di Milano, perché si era inaugurato allora, era, come hai detto tu, a due passi dalla Scala, era al centro di una galleria intellettuale dove c'era una famosa libreria Einaudi, che ovviamente non c'è più, aveva un atrio di 800 metri quadri e aveva anche a fianco, gemellato, un bellissimo teatro che per fortuna quello ancora resiste. Quindi il Manzoni è stato a lungo veramente il locale, il president, diciamo, di grande, perché aveva 1600 posti, però il luogo dove si andava e che aveva un suo plus valore di eleganza, ma non era solo un'eleganza mondana, era proprio anche una serie di comfort nei limiti tecnologici di allora che aiutavano a vedere il film nel migliore dei modi. La sala era architettonicamente firmata e con le sculture firmate, e tra l'altro faceva tutt'uno proprio nella grafica, diciamo, nel design, col teatro che ho citato. E nel corso del tempo, sai, sono innumerevoli i film importanti, le grandi prime che sono state date al Manzoni. Io personalmente ricordo, quando ero quasi piccolo, My Fair Lady, cioè no, non ero tanto piccolo, ma insomma ricordo My Fair Lady, che è stato su addirittura due stagioni, nel senso di primavera e estate. Ricordo Fellini Satiricon, e poi invece lì sì, andando molto indietro nella prustianamente, molti Hitchcock, Luci della Ribalta di Chaplin, dei Visconti anche, e naturalmente con gli ospiti illustri del caso, da Gassman a Benigni, seguendo il corso del divismo e del tempo. Poi un po' alla volta, innanzitutto la dimensione così, diciamo, extra large, che naturalmente non era più consona ai consumi del cinema, e un po' anche il fatto che sembra folle, ma insomma, che il cinema Manzoni, siccome non era in Corretto Emanuele, veniva considerato un pochino decentrato, periferico rispetto alla famosa piccola Broadway, come la chiamavano gli esercenti di Corso Vittorio. E così il pubblico ha incominciato un po' a disamorarsi, anche se, ripeto, in questo cinema sono state fatte anche delle innovazioni assolutamente in anteprima su tutta Italia. Il Cinerama è stato dato al Manzoni solo dopo Londra, quindi come seconda città in Europa. Questo è il Cinerama, e poi La Conquista del West, un pugno di film, diciamo, anche Questo Pazzo Mondo, un pugno di film dati appunto con la tecnica delle tre proiezioni. E quindi ci sono moltissime ragioni per dispiacersi che anche questo locale decada. Certo, tutti capiamo che un locale così grande, con un atrio di 800 metri quadri al centro degli interessi di tutti i furbetti milanesi immobiliari, è ovvio che qualcosa deve succedere, anche perché in realtà il cinema è chiuso dal 2006, non ha chiuso ieri. Certamente, no, però sarebbe davvero importante che all'interno anche di un'altra cosa ci fosse lo spazio per un cinema. Per esempio, io mi dispiaccio molto personalmente, anche se non vale niente, che Armani non abbia pensato, ristrutturando tutta l'area di via Manzoni, dove c'era il famoso Capitol, che anche quello è stato un locale storico per il cinema italiano, di non aver creato, per esempio, una saletta dove ci fosse lo spazio proprio per il recupero del cinema del passato, e sicuramente lui poteva farlo, insomma, fra alberghi e ristoranti cinesi, fra sushi e qualcosa, ci poteva stare anche un locale che si chiamasse Capitol e che fosse, diciamo, la miniaturizzazione di quello che era, però comunque era una presenza. Speriamo che adesso col Manzoni si riesca a fare qualcosa del genere. Ecco, a proposito di questo, Maurizio, proprio speriamo che al Manzoni si riesca. È importante che, al di là di del rimpianto, insomma, ci sia anche della proposta. Noi siamo in collegamento anche con Franco Boccagelsi, produttore, ma anche diciamo facente parte di un comitato, di un neonato comitato che proprio questa settimana si è riunito alla Casa della Cultura a Milano per cercare di elaborare delle proposte fattive. Allora, Franco, grazie per essere qui con noi. Cosa è uscito in un minuto? Cosa è uscito? Quali sono i modi in cui potrebbe continuare a vivere in qualche modo culturale il Manzoni? Tanto premetto che non è accertato che verrà fatto un centro commerciale, nel senso che non c'è una richiesta ufficiale, anche però se sappiamo che da qui a poco arriverà. Le proposte che sono emerse sostanzialmente dal gruppo sono variegate. Ci siamo formati in un comitato di circa 35 persone che si riunirà intorno al 30-31 gennaio per dibattere della sostenibilità della Sala Manzoni, sia dal punto di vista di sala cinema come di centro, diciamo, policulturale. Infatti in questa riunione erano presenti anche persone che venivano dal mondo del teatro e dell'arte. C'è sicuramente la necessità di avere un centro cittadino che raccolga tutte queste istanze culturali. Ci stiamo muovendo intorno al concetto del bene comune, che è un nuovo istituto giuridico che sta venendo fuori nelle discussioni che si sono create intorno all'occupazione del Valle a Roma e ai cantieri della divisa a Palermo. È tutto da verificare per adesso il percorso con le istituzioni, siamo sicuri e convinti che saranno sensibili, ovviamente abbiamo i piedi per terra e dovremo verificare la sostenibilità davvero di una possibile ipotesi di riapertura del cinema Manzoni. Quello che sicuramente chiediamo è che, voglio dire, con forza continueremo a chiedere e non lasceremo la presa, è che se non dovesse essere Manzoni, perché non fosse possibile, non riuscissimo a elaborare un piano, comunque di ragionare sul discorso del centro che si sta desertificando e sul fatto che vanno presidiati dei luoghi culturali, e ci poniamo in scuola di istituzioni come alleati e chiediamo con forza che loro ci ascoltino come comitati cittadini. Perfetto, grazie. Allora noi raccogliamo ovviamente questo appello e lo lanceremo tutte le volte che sarà necessario. Grazie a Franco Boccagelsi, grazie a Maurizio Porro per averci raccontato questa storia di ordinaria decadenza di un centro di una grande città italiana. La Rosa Purpurea. Eccoci qua ancora alla Rosa Purpurea, siamo arrivati alla nostra zona di visioni domestiche, di film da vedere in casa fra apparecchi DVD, Blu-ray o televisione che ogni settimana propone in chiaro e gratuitamente tanti film da rivedere, da recuperare per arricchire la propria cultura cinematografica. E allora lo facciamo con gli amici di Film TV, come sempre, che hanno dato un'occhiata ai palinsesti della prossima settimana. Giulio San Giorgio è già in collegamento con noi, ciao Giulio. Ciao Franco e bentornati con le nostre segnalazioni. Cominciamo con un film molto molto recente. Per una volta è la TV che fa il cinema, cioè che mette in onda un film prima, anzi invece, del grande schermo. Stiamo parlando di Tahrir di Stefano Savona, una sorta quasi di instant movie. Io ho incontrato Stefano Savona lo scorso agosto a Locarno, quando aveva appunto presentato in quel festival questo film, girato tutto in piazza Tahrir, al Cairo, il cuore di tutte le proteste che hanno dato il via alla cosiddetta primavera araba, quelle che l'hanno incarnato di più. E adesso questo film arriva per cercare di capire meglio di qualsiasi parola, di qualsiasi telegiornale, arriva appunto in televisione su Rai 3. Esattamente, lunedì su Rai 3 all'1:15, su fuori orario, Tahrir Liberation Square. Stefano Savona è tra i maggiori giovani documentaristi italiani, tanto che quest'anno il Festival di Torino l'ha invitato a tenere una lezione di regia. È uno che la Francia distribuisce premi, mentre l'Italia no, meno male che c'è fuori orario. Nel febbraio 2011, appunto, durante la mobilitazione egiziana contro Mubarak, Savona coglie per 18 giorni i volti, i pensieri, le azioni della folla dei manifestanti, fornendo così una cronaca pressoché in tempo reale della rivoluzione che da Twitter ha portato a un cambiamento epocale, passando per la piazza, ovviamente. E allora Tahrir di Stefano Savona, lunedì 23 gennaio 1:15, ovviamente registratori in grande funzionamento su Rai 3. Cambiamo genere, cambiamo tema e cambiamo autore, però è importante andare a vedere un film poco conosciuto di uno che è diventato poi un grande regista come Darren Aronofsky. Stiamo parlando di Pi Greco, Il teorema del delirio. Assolutamente, giovedì Pi Greco, Il teorema del delirio su Iris alle 23:30. Aronofsky all'esordio mette in scena la ricerca di uno studioso convinto di poter scoprire lo schema matematico che struttura il mondo, e gira un film cervello in cui il bianco e nero scolpisce un'immagine sospesa tra la realtà e l'allucinazione, il montaggio punteggia una paranoia che si trasforma in follia e il sonoro aggredisce sistematicamente la percezione dello spettatore, facendo di questo film un'esperienza radicale e violenta che affonda nel delirio. Perfetto, allora ricordiamo l'appuntamento con il film di Darren Aronofsky, Pi Greco, Il teorema del delirio, giovedì 26 gennaio su Iris alle 23:30. Grazie a Giulio San Giorgio. Grazie a te Franco e un saluto ai radioascoltatori. E siamo arrivati adesso alla terza e conclusiva traccia del Blu-ray Game di oggi. E non spaventi quella povera ragazza. La colpisca col suo spirito arguto. Ma sia gentile. La ricopra di complimenti. Ma sia sincero. E soprattutto, si ricordi, cerchi di controllare il suo umore. Oh, eccola che arriva. La Rosa Purpurea chiocciola radio24.it. Di che film si tratta? Ricordo in palio Blu-ray 3D per il più bravo e veloce del sabato e della domenica. Risposta e vincitori la prossima settimana. Sentiamo invece una clip del gioco della settimana scorsa. Adesso non ci rimane che tornare alle cascate e pronunciare l'incantesimo entro stasera. E torneremo a casa. E torneremo a casa. Tornerete a casa altro che in un posticino che io chiamo Castello Belvedere. E allora si trattava dei puffi in 3D che arrivano in un video con la possibilità appunto di essere visti con gli occhialini anche a casa. Vincitori i più veloci del sabato e della domenica: Paolo Bianco di Monza e Anna Possia di Vicenza, Vicenza riceveranno il Blu-ray dei puffi in 3D, di cui parliamo con il nostro Claudio Poffi, che è in collegamento. Ciao Claudio. Eccoci Franco, un saluto di vicino ascolto. Allora, questa offerta da parte di Sony Pictures Home Entertainment è molto interessante, oltre all'ambito DVD consigliamo veramente caldamente questa versione Blu-ray in alta definizione, che è disponibile in due versioni, sono due differenti edizioni in vendita, quella bidimensionale oppure la tridimensionale, comunque con la possibilità di visionare il film a due dimensioni per chi magari fosse intenzionato a un successivo acquisto del sistema 3D. La qualità è superlativa sia per quanto riguarda la parte video che per quella audio, in special modo per la traccia in inglese ad alta risoluzione. Ci sono tantissimi extra per approfondire la lavorazione, ma su tutti segnalo questa novità, ovvero una sorta di modalità per chi fosse in possesso di un terminale come iPad o iPhone, di vivere l'esperienza di un secondo schermo per interagire con i personaggi del film mentre si visiona l'opera. E beh, questo è davvero un altro passo avanti nella storia dell'interazione fra lo spettatore e il film. I puffi, quindi, il gioco della scorsa settimana, la recensione di oggi. E andiamo a vedere invece le altre recensioni delle novità che arrivano in videoteca, cominciando con un mito del fumetto come Conan il Barbaro. Quando combatti con un cimmerio, anche se è un ragazzo, uccidilo è meglio. Io ho ucciso centinaia di cimmeri. Sì, un intero villaggio. Ma non sono morto nella fucina di mio padre. Fuggi da me e sradicherò le montagne per trovarti. Ti seguirò all'inferno. Partorito in battaglia, barbaro della stirpe dei cimmeri, dopo aver assistito ancora adolescente alla distruzione del suo villaggio e alla morte del padre, Conan da adulto ha un solo obiettivo: vendicarsi dei colpevoli della strage sino a raggiungere il loro capo, un pazzo sanguinario dichiaratosi re, che attraverso la negromanzia è convinto di riuscire ad assimilare i poteri di un dio. Remake dell'originale Conan il Barbaro di John Milius, l'opera di Marcus Nispel, ha qualche momento televisivo, risultando sicuramente più epico ed efficace nella seconda parte. Davvero un'ora di cinema, una variegata offerta di DVD e Blu-ray con versioni bidimensionali, tridimensionali, addirittura con occhialini colorati, visionabili quindi su qualsiasi televisore, ma c'è soprattutto il Blu-ray 3D nella versione attiva, perché già possiede questo innovativo sistema. La qualità video è notevole, sono strepitose tracce audio ad alta risoluzione, come extra solo il trailer. E allora andiamo a un'altra proposta che arriva invece da questa stagione cinematografica, come questo thriller intitolato Il debito. Solo quattro persone sanno cos'è successo qui. Noi e lui non parlerà. Nessuno lo sentirà più nominare. No. Nessuno deve sapere cos'è successo qui. È scappato. Questa è la verità. Ma non serve che sia la verità che noi portiamo a casa. La verità può essere tutto quello che vogliamo che sia. La verità è che Fogel ha tentato di scappare. Tu hai lottato e lui ti ha ferita. La verità è che pochi secondi prima che scappasse, Rachel ha preso la pistola e gli ha sparato. Nel 1997 seguiamo le vicende di tre ex agenti segreti del Mossad, Rachel, Stefan e David, venerati in Israele per via di una missione segreta nel 1966, quando riuscirono a rintracciare a Berlino Est il criminale di guerra nazista Dieter Vogel. Rachel nel corso della missione si era trovata romanticamente divisa tra i due colleghi e la trappola era stata stretta utilizzando proprio lei come esca, ma nonostante i rischi e il tentativo di fuga di Vogel, il trio rientra in Israele affermando di aver eliminato per sempre l'obiettivo, ma a distanza di 30 anni il criminale viene avvistato in Ucraina. Remake dell'omonima pellicola israeliana diretta da Sav Bernstein nel 2007, diretto dal candidato all'Oscar John Madden, il realizzatore di Shasta in Love. Da Universal Home Video, un Blu-ray di eccellente qualità, c'è anche il DVD, la traccia DTS multicanale in italiano di ottima resa, superiore a quella in inglese ad alta risoluzione. Come extra su tutti segnalo il commento al film in compagnia di regista e produttore. E allora questa era l'ultima segnalazione di questa settimana per le nostre segnalazioni appunto in DVD e Blu-ray. Grazie a Claudio Poffi, appuntamento fra 7 giorni. Ciao, a presto. E allora, con le segnalazioni in un video, noi chiudiamo la nostra trasmissione. L'appuntamento va la prossima settimana. Un'occhiata alle uscite del prossimo weekend. The Iron Lady, sicuramente film molto atteso anche in chiave Oscar, perché come saprete c'è da vedere al cinema la Margaret Thatcher interpretata da Meryl Streep. E poi Mission Impossible, arriva l'ennesimo capitolo della saga di Mission Impossible. Questi mi sembra i titoli di effetto sul botteghino. Poi da vedere Acaba e Il Sentiero, che sono due film molto interessanti. Ne parleremo la prossima settimana. Vedremo anche quali saranno le implicazioni sulla classifica, che al momento è guidata da Immaturi di Paolo Genovese. Immaturi, il viaggio, il sequel di questa commedia molto fortunata italiana, che ha già superato i 10 milioni di euro di incasso. E al secondo posto vede invece La Talpa di Thomas Alfredson, che è esordito la scorsa settimana. Ma c'è adesso da verificare quale sarà l'incasso di Benvenuti al Nord, che probabilmente travolgerà tutto e tutti in questo weekend. Quindi tutto questo lo scopriremo il prossimo fine settimana, sabato alle 18, domenica alle 15, qui alla Rosa Pure. Un saluto da Franco D'Assisti.